se fosse una valvola di sfogo. Le cuffie al massimo volume per sentire il suono migliore tra le sue varie sfumature. Ora per poco hai perso la strada di casa e questa strada è desolata. Bozze di fango scuro sotto quella staccionata. La maglietta rovinata, stracciata, ha perso colore. Da quello che era verde ora è diventato marrone. Ora rispondi alla mia domanda: per caso vedi persone? E se qualcuno fosse in giro tu cambieresti espressione? Io manderei a fanculo per non essere migliore. Più di come già non sono e non si vede da come si pone il carattere di qualcuno. Per questo adesso fanculo, lascia il mondo al suo destino, perché tu è andato in fumo. Nessuno può dirti che fare per diventare qualcuno. Nessuno può dirti chi sei o se sarai nessuno. Sei così, tutto cambia, ma tu resterai così come sei, sarai. Sei così, tutto cambia, ma tu resterai così come sei, sarai. Le vittorie e le sconfitte vedrai che insegnano la vita. Sentirai un po' di fitte, ma alla fine è la discesa che gratifica in salita. La tua vita è una sorpresa che non può essere descritta da una punta di matita. È finita l'ora di scherzare, ma combatti e reggi. Il peso di ogni giorno è già passato a ciò che è oggi. Manda a fanculo e oggi ogni cosa che non si abbraccia. Alza tutto il peso solo con la forza delle tue braccia. Per quante volte hai camminato nella pioggia, adesso anche la merda è diventata come reggia. Una parola piena che in quest'area non regheggia. E rime testimoni di una storia mentre la chitarra arpeggia. Una scheggia, un coltello in petto che ti spreggia. Una freccia scoccata da una vita che ti spaccia. Come un uomo allegro senza gente che festeggia, vedo solo un'ambulanza e la sua luce che lampeggia. Ora avvicina gli amici ai nemici, metti le cornici, slega le catene, non sentirti più in ostaggio di questa società finita all'ancoraggio. Come missili balistici ho le rime te le scaglio su queste navi da guerra, adesso senza un ammiraglio, su questi bombardieri che non fanno metterraggio. Ora so cosa cerco, ora so cosa voglio. Voglio cambiare strada, voglio una penna e un foglio. Voglio dare vita alla musica e lasciare un segno. Voglio rimanere sveglio, voglio vivere al secondo, senza gente che mi dica sempre solo cosa sia meglio. Sei così.